Anna Bronte, la terza e più giovane delle mitiche sorelle Bronte, è anche la meno conosciuta. Questo non significa che la sua opera sia meno valida, anzi, a nostro avviso, per molti versi, è la più vera, poiché, essendo scevra da tutti gli ornamenti romantici che le due più celebri sorelle inserirono in quantità nei loro più famosi romanzi, risulta essere una più fedele cronaca della condizione femminile di quei tempi. Sappiamo che in epoca vittoriana il ruolo delle donne era quello di mogli e madri. L'unico sbocco eventualmente professionale, per così dire, era la domestica o l'insegnante. Le donne non avevano diritto a possedere nulla, né per dote né per eredità. Quando non si sposavano, rimanevano a carico del padre o del fratello fino alla loro morte. Venivano mantenute in uno stato di forzata ignoranza, poiché era considerato innaturale che una donna fosse istruita. Le ragazze che desideravano studiare legge, medicina, fisica o arte venivano derise o allontanate dagli atenei. Unica dote che veniva richiesta a una donna era l'obbedienza. È significativo il fatto che le tre sorelle abbiano tentato di aprire un collegio per ragazze, al quale però non si presentò nessuna aspirante. Anche Anne, come le sue sorelle Emily e Charlotte, sentì irresistibile il richiamo della scrittura. Essendo lei stessa una governante, descrive in uno dei suoi due romanzi, Agnes Grey, la condizione servile delle istitutrici, le quali, tra l'altro, sia non venivano incluse nelle conversazioni dai padroni, poiché considerate domestiche, sia venivano escluse anche dai rapporti con la servitù, che invece le considerava superiori e pertanto ne diffidava. L'istitutrice era quindi condannata a vivere in una terra di nessuno, isolata e senza affetti, in una situazione di costante solitudine, perseguitata da una bruttissima fama che spesso la rendeva bersaglio di ribellioni e cattiverie da parte delle allieve. Tuttavia, Anne adoperò le sue tristi esperienze di istitutrice come materiale letterario, scrivendo di nascosto tutte le volte che riusciva a ricavarsi qualche ritaglio di tempo. Una volta sua sorella Charlotte ebbe a dire che nessuna che non fosse stata una governante conosceva veramente il lato oscuro della cosiddetta natura umana rispettabile. Questo a commento del fatto che in Agnes Grey, sua sorella Anne, descrive come i maschi della famiglia venissero addirittura incoraggiati alla crudeltà nei confronti degli animali di casa, delle sorelle e della istitutrice stessa, denunciando una malata mentalità gerarchica in cui il maschio umano sta in cima alla creazione e detiene legittimamente il potere di salvare o distruggere tutto il resto del creato. La signora di Wildfell Hall, che la Scuola delle Donne vi propone in audiolettura, racconta di Helen Graham, che fugge da un matrimonio infelice, argomento molto poco indicato, secondo la sorella Charlotte, che era anche l'agente letteraria di Anne. Il personaggio del marito cattivo, poi, è basato sulla figura del loro fratello alcolizzato e dedito all'oppio. Nonostante il marito la tradisca e sia palesemente annoiato da lei, Helen, per potersene andare e scappare dalla violenza domestica, ha il dovere di chiedergli il permesso, permesso che naturalmente non le viene accordato. Le accurate descrizioni della brutalità e dell'alcolismo, il linguaggio asciutto e realistico utilizzato e la messa in luce della violenza sulle donne ad opera dei mariti nei primi anni dell'Ottocento non verranno apprezzati dalla critica puritana, bigotta e maschilista del tempo. E infatti Anne, nonostante il suo encomiabile e coraggioso lavoro, non ha neanche lontanamente raggiunto la fama delle sue sorelle, pur meritandola pienamente per la capacità di descrivere in maniera lucida e realistica il marcio della società vittoriana e specialmente il crudele trattamento che subivano le donne una volta sposate. Anne Bronte ci ha lasciato purtroppo solamente due romanzi, poiché morì molto giovane, a soli 29 anni, di tubercolosi in un ricovero sulla costa inglese, pochi giorni dopo esservi giunta. In questa audiolettura vi proponiamo la versione integrale edita da Newton Compton Editori per la traduzione di Martina Rinaldi. Da Devana, buon ascolto.